Bene, date le circostanze, ho deciso di fare questa breve audio lezione, visto che non amo né essere filmato né essere fotografato, quindi cercherò di essere breve, anche se la cosiddetta flipped classroom prevederebbe trattazioni di 6 minuti. Io in 6 minuti non riesco a spiegare niente, quindi ci vorrà un po' più di tempo. Indicherò soltanto i paragrafi che vi consiglio, o meglio, che dovete studiare. Quelli che non indico possono essere saltati, ecco, quindi argumentum ex silentio. Ciò che non dico di fare si può saltare. Allora, a pagina 214 del vostro libro, La guerra greco-gotica devasta l'Italia. Potete saltare il primo capoverso. Ad ogni modo abbiamo già parlato del cosiddetto Bellum Gothicum, dal 535 al 553, date importanti e anche facili da ricordare. Insomma, in parole povere, Giustiniano liberò l'Italia dai Goti, sconfiggendo, pur se dopo varie vicissitudini, si avvicendarono due generali, prima Belisario, poi Narsete. Ad ogni modo, l'esercito di Giustiniano riuscì a sconfiggere Narsete, scusate, riuscì a sconfiggere Totila, ovviamente, il re dei Goti, liberando l'Italia. Ecco, qui viene citato un documento molto importante, la cosiddetta Prammatica Sanzione, di cui ho caricato il testo scannerizzato, ovviamente in traduzione italiana, nell'apposito spazio virtuale che contiene i materiali didattici. Si tratta di un testo di grande importanza perché, dal punto di vista giuridico, Giustiniano cancellò tutte le innovazioni introdotte dai Goti e di fatto restaurò lo status quo antea, cioè la situazione preesistente. Secondo alcuni storici, i Goti avrebbero portato in Italia una maggiore giustizia sociale, insomma, una maggiore equità, in particolare sottraendo terre ai latifondisti e dando piccoli appezzamenti di terreno a dei contadini poveri. Quindi questa prammatica sanzione farebbe di Giustiniano un reazionario, tra virgolette, comunque un restauratore, diciamo, della situazione precedente. Il giudizio della storiografia su Giustiniano non è unanime. In particolare Procopio, da un lato, scrisse l'opera intitolata La guerra gotica, lo storico Procopio. Nella guerra gotica viene data un'immagine positiva di Giustiniano, ma accanto alla guerra gotica c'è pervenuta anche la cosiddetta historia arcana, la storia segreta, in cui Procopio, rivolgendosi ai posteri, dice l'esatto contrario, cioè dà di Giustiniano e della sua corte e anche dell'imperatrice Teodora un'immagine piuttosto negativa. In particolare qui si accenna, insomma, la cosiddetta peste di Giustiniano, visto che siamo in tema purtroppo di contagi, ma insomma, la peste di Giustiniano era ancora peggio del coronavirus, perché non, beh, decine di migliaia di vittime. Beh, insomma, anche con il coronavirus ci stiamo avvicinando, insomma. Comunque, a pagina 216, il Corpus Iuris Civilis. Allora, io vi ho già citato i famosi versi di Dante. Il modo migliore per accostarsi alla figura di Giustiniano forse è proprio leggere il sesto canto del Paradiso di Dante, in cui viene celebrata la figura di questo grande imperatore. Allora, Cesare fui e son Giustiniano, che dice Dante, dentro le leggi, di apostrofo entro, le leggi trassi il troppo e il vano. Insomma, Giustiniano compì, non lui personalmente, ma per iniziativa di Giustiniano, una equipe di grandi giuristi, fra cui Agazia Scolastico, Triboniano, insomma, nomi rimasti nella storia del diritto, insomma, per iniziativa di Giustiniano, appunto, la legislazione romana venne raccolta in modo sistematico e venne sfrondata, insomma, di tutti gli elementi superflui, sovrabbondanti, inutili e contraddittori. Ecco, il troppo e il vano. Con il corpus iuris civilis dal diritto romano venne eliminato il troppo, vennero eliminati il troppo e il vano, ciò che era sovrabbondante e ciò che era inutile. Il corpus iuris civilis fu un'opera davvero straordinaria nella storia della cultura. Fra l'altro c'è, se non ricordo male, anche in quella piccola antologia di fonti che ho caricato, che caricherò fra breve nel sito, un brano, o meglio, ci sono due o tre brani del Corpus Iuris Civilis. Ecco, il Corpus Iuris Civilis rappresenterà un testo fondamentale nella civiltà occidentale nel corso del Medioevo, no? I grandi glossatori Irnerio e Graziano commenteranno il Corpus Iuris Civilis, dando vita alla straordinaria civiltà giuridica medievale. E torneremo su questo punto: quando si dice Medioevo, secoli bui, si tende a dare del Medioevo un giudizio decisamente negativo. In realtà, il diritto, la lenta e graduale elaborazione attraverso il lavoro di questi glossatori, di questi commentatori, insomma, di questi grandi magistri iuris, ecco, il lavoro di questi grandi maestri di diritto poco a poco contribuì a formare e ad affinare la civiltà giuridica che poi è giunta fino a noi con le ovvie trasformazioni. Dunque, in materia di legge, di istituzioni, andate alle pagine 228-229, qui c'è un interessante accostamento fra la legislazione moderna e la situazione dei regni romano-barbarici. Questo è un aspetto fondamentale su cui fra l'altro è anche incentrato quel compito che dovreste, o meglio dovete, inviarmi entro il 15 marzo, come ho scritto sul registro elettronico. Come sapete, la Costituzione italiana, creata nel dopoguerra, dopo la caduta del fascismo, che come sapete era una dittatura e non riconosceva i diritti individuali, la libertà e la democrazia, insomma, la Costituzione italiana, nell'articolo 3, dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Senza distinzione di sesso, beh, ovviamente i padri costituenti, quando scrivevano senza distinzione di sesso, avevano in mente l'uomo e la donna. Oggi questo diritto viene esteso anche ad altre identità sessuali che oggi vengono riconosciute all'epoca. Vabbè, sarebbe un discorso complesso, insomma. Comunque, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Queste sono libertà per noi ovvie, libertà che noi tendiamo a dare per scontate, ma non è sempre stato così. Anzi, come vedete proprio nella pagina accanto, e come abbiamo già visto, non c'era uguaglianza né nel mondo romano prima della caduta dell'impero, ma nemmeno nei regni romano-barbarici. Innanzitutto perché gli honestiores, cioè i ceti superiori della società, godevano di maggiori diritti e venivano giudicati anche secondo una diversa legislazione, più favorevole a loro, mentre gli humiliores, venivano trattati in modo meno equo. Ma anche perché, come abbiamo detto, nei regni latino-germanici, come andrebbero più propriamente chiamati, i latini continuavano ad essere assoggettati al diritto romano, mentre i germani continuavano a seguire la loro legislazione tribale, barbarica, diciamo, e non scritta. Ecco. Come vedremo, l'editto di Rotari rappresenterà un grande passo avanti, perché se non altro questa legislazione barbarica verrà fissata per iscritto in latino, un latino molto interessante anche linguisticamente perché contiene molte forme di origine barbarica, chiaramente non era il latino classico, e nell'editto di Rotari, ma prima ancora nell'editto di Teodorico, perché c'è anche un editto di Teodorico meno noto, ovviamente antecedente all'editto di Rotari, c'è una fusione non priva di originalità fra il diritto barbarico e la legislazione romana, che gli stessi barbari riconoscevano essere superiore. Come abbiamo già detto, i Goti riconobbero subito che dal punto di vista politico, amministrativo e giuridico, la civiltà romana era decisamente superiore. Ecco, qui il vostro libro allude al cosiddetto digital divide, cioè come si potrebbe tradurre, il divario digitale, insomma, il fatto che una parte della popolazione mondiale non abbia accesso a internet, e questo costituirebbe un grande svantaggio. Ci sono centinaia di milioni di persone che non hanno accesso nemmeno all'acqua pulita, alle vaccinazioni, alle medicine, e non hanno neanche da mangiare, quindi penso che internet sia l'ultimo dei loro problemi. Comunque, molti insistono oggi su questo digital divide, ecco, forse sperando che questi, pur non avendo da mangiare, pur non avendo neanche l'acqua pulita, abbiano la connessione internet con lo smartphone, così possono comprarsi qualche cretinata su Amazon o non so dove. Vabbè, comunque. Allora, a pagina 235. Il Medioevo, storia di un concetto, come vi ho già detto, studiate bene, pagina 235. Anche a pagina 236-237 la nascita del Medioevo. Sono argomenti che io ho già toccato nel corso delle mie spiegazioni, che però praticamente nessuno ascolta, quindi. Beh, anche questo MP3, a dire il vero, non so in quanti lo ascolteranno, ma insomma. Vabbè, come che sia. Spesso si dà al termine medioevo una connotazione negativa. Quando si dice cose da medioevo, roba da medioevo, hai una mentalità medievale. Medievale viene inteso come sinonimo di arretrato, anacronistico, patriarcale, per usare un termine che oggi va molto di moda, ma che significa tutto il contrario di tutto. In realtà nel Medioevo ci fu anche la grande civiltà giuridica di cui abbiamo parlato, ci furono le cattedrali gotiche, ci fu una straordinaria fioritura di letteratura latina medievale che poi confluirà e troverà la propria sintesi nell'opera di Dante, anche se la commedia è scritta ovviamente in italiano. Comunque, in Dante, come diceva un grande letterato inglese dell'Ottocento, parla il silenzio di 10 secoli muti. Ecco, questo grande periodo, che approssimativamente va dalla caduta dell'impero romano, 476, alla scoperta dell'America, 1492. Ovviamente Dante scrive il proprio poema nei primissimi anni del XIV secolo. Ad ogni modo, non c'è univocità e concordia fra gli storici, anche per quanto riguarda la periodizzazione. Alcuni storici si spingono a dire che il Medioevo finisce davvero soltanto con la rivoluzione scientifica, quindi fra XVI e XVII secolo. Altri sostengono che finisca soltanto con la rivoluzione francese, quindi tutto l'Ancien Régime, essendo caratterizzato ancora dall'impero o dalle monarchie, insomma, e soprattutto da un sistema sostanzialmente feudale e da un grande potere politico della Chiesa, tutto l'Ancien Régime di fatto sarebbe ancora medievale in senso lato. Del resto, anche un grande poeta del Rinascimento come Torquato Tasso era ancora favorevole all'idea di crociata, aveva una visione della storia che sostanzialmente per molti aspetti era ancora medievale. La tradizione cavalleresca, ad esempio, nella letteratura nasce nel Medioevo con la Chanson de Roland, con la letteratura provenzale, e arriva fino al pieno Rinascimento, insomma, Boiardo, Ariosto, Tasso, tutte cose che forse avete già studiato alle medie, che studierete di nuovo al triennio. Insomma, non c'è una cesura così netta fra Medioevo e Rinascimento. Questo concetto di Medioevo, media etas, media tempestas, nacque proprio nel Rinascimento. Gli uomini del Medioevo non sapevano di vivere nel Medioevo. non percepivano in modo così netto la cesura fra antichità e fra mondo classico, fra il mondo classico e l'epoca in cui vivevano. Solo con l'umanesimo, nel XV secolo, si affermerà la consapevolezza di essere entrati in una nuova epoca e con una sfumatura anche negativa si inizierà a parlare di media etas o media tempestas per indicare l'epoca precedente. Peraltro l'idea stessa di rinascimento, di rinascenza, si trova paradossalmente già nel Medioevo. Abbiamo parlato della Renovatio Studii, che accompagnava la Renovatio Imperii nel contesto della cultura carolingia, cioè no, la scuola palatina, Carlo Magno, il grande Alcuino, il direttore della scuola palatina. C'è in quella piccola antologia di fonti, purtroppo di scarsa qualità per quanto riguarda la scannerizzazione, ma con il mio modesto tablet non sono riuscito a fare di meglio. Ma c'è in quell'antologia, quel testo, un testo importante, la Epistula de Litteris Colendis, sarebbe lettera sugli studi umanistici, si potrebbe tradurre, no? In cui Alcuino raccomanda al clero di studiare bene il latino, insomma di recuperare la cultura classica, senza la quale era impossibile comprendere anche la Sacra Scrittura. Alcuino, appunto, fra VIII e IX secolo, scrive in un perfetto latino classico che non ha quella rozzezza che gli intellettuali dell'umanesimo e del Rinascimento rimprovereranno al latino medievale. Nel XII secolo, dunque ancora in pieno Medioevo, vi è la cosiddetta scuola di Chartres, in cui viene recuperato il pensiero di Platone, quindi un altro esempio di rinascenza, ecco, nel cuore stesso del Medioevo. Prima ancora, Ottone III, come vedremo, seguendo il magistero del suo maestro Gerberto di Aurillac, attuò consapevolmente una Renovatio Imperii, un tentativo di restaurare la passata grandezza dell'impero, del tutto analogo a quello che era stato compiuto da Carlo Magno e che si era concluso con la deposizione di Carlo il Grosso. Beh, adesso è un lapsus, vedete un po' voi. Comunque la storia è sempre fatta di conclusioni, rinascite, tramonti, albe. Insomma, è difficile periodizzarla in modo univoco. Allora, praticamente, saltate alla pagina 241, la storia economica non mi entusiasma, insomma, mi sembra molto noiosa. Comunque, la Curtis, in questo periodo, insomma, non è l'alto medioevo, per alto medioevo si intende il periodo anteriore all'anno 1000. Oggi noi sappiamo che non ci fu in realtà nessuna paura dell'anno 1000. Insomma, un tempo si diceva, la gente pensava che nell'anno 1000 il mondo dovesse finire, e quando vide che il mondo non era finito, ci fu un grande risveglio, un grande entusiasmo e tutto si rinnovò. C'è una pagina di Carducci, ad esempio, suggestiva su questa leggenda dell'anno 1000. In realtà è stato dimostrato, in particolare da un grande medievista francese, Georges Duby, è stato dimostrato che non ci fu nessun panico, nessuna angoscia, insomma, per l'anno 1000, perché così, insomma, è una leggenda creata a posteriori, ma convenzionalmente si prende l'anno 1000 come spartiacque fra alto medioevo e basso medioevo. Ecco, nell'alto medioevo la struttura economica prevalente era quella della curtis. La curtis, da cui poi deriva il termine corte, ma in realtà non era la corte come la immaginiamo noi, la corte rinascimentale, la corte estense, la corte, no, per corte qui si intendeva una specie di feudo, insomma. Abbiamo visto che già nella fase della decadenza dell'impero romano, prima ancora che cadesse l'impero romano, si era diffusa la consuetudine secondo cui i contadini poveri, temendo per la propria incolumità e per la propria sopravvivenza, si rifugiavano sotto la protezione di un dominus, il quale spesso fortificava la villa, la fattoria, insomma, il podere. E quelle erano già forme embrionali di proto o di pre-feudalesimo. La curtis è un'ulteriore tappa nel processo che porterà alla nascita dei feudi medievali. Era divisa fra pars dominica e pars massaricia, la parte riservata al signore, quella riservata ai contadini, i quali erano tenuti, come poi accadrà nel sistema feudale, a delle corvée. Ecco, delle corvée, parola che era rimasta fino a qualche decennio fa anche in italiano per indicare un compito sgradito, per lo più umile, ecco. Prestazioni solitamente in forma di lavoro o di derrate alimentari, prodotti agricoli. Insomma, i poveri contadini erano tenuti a lavorare gratis e a fornire anche a fornire anche dei prodotti agricoli al signore. Peraltro, come sottolinea il vostro libro, la curtis non era totalmente isolata. Anzi, c'è anche un capitulare, cioè un decreto di Carlo Magno in cui si impone di cedere all'esterno della curtis i prodotti che non potevano essere consumati per intero all'interno della stessa curtis. Quindi esistevano forme di scambio commerciale, anche se il sistema monetario in età carolingia era molto rudimentale, c'era praticamente una sola moneta che valeva uno, e quindi prevaleva il baratto, diciamo, i commerci non sparirono del tutto, ma furono limitati. Allora, pagina 244, il monachesimo benedettino, pagina 245, il monopolio ecclesiastico sulla cultura. San Benedetto da Norcia in realtà non scrisse mai ora et labora, gli viene attribuita questa frase, ma testualmente non si trova nei suoi scritti. Io ho inserito in quell'antologia di fonti la regula monachorum, la cosiddetta regola benedettina. Insomma, San Benedetto da Norcia impose ai monaci di non vivere nell'ozio, ma di dedicarsi al lavoro, alla lettura, alla preghiera, allo studio e anche e soprattutto alla trascrizione dei manoscritti. Immagino che molti di voi abbiano visto Il nome della rosa. Il nome della rosa di Elvero è ambientato nel 1327, se non ricordo male, ai tempi dell'eresia dulciniana. Qui siamo molto prima, ma già in questo periodo i monaci, qui c'è anche una bella miniatura che mostra questi monaci impegnati, a dire il vero, ad ascoltare una divina lezio. In ogni modo, i monaci benedettini ebbero il grande merito di trascrivere i capolavori della letteratura latina, non di quella greca, perché ormai il greco era conosciuto soltanto a Bisanzio, soltanto in Oriente. Un altro merito del Medioevo fu proprio quello di trasmettere questo patrimonio della civiltà latina, della cultura classica, che sarà poi riscoperto, sarà per lungo tempo in parte dimenticato lungo il corso del basso Medioevo. A partire da Petrarca e da Boccaccio, i preumanisti e poi gli umanisti riscopriranno molti di questi manoscritti vergati dai monaci benedettini, Quintiliano, Lucrezio, Catullo, le epistole di Cicerone, Apuleio. Insomma, saranno molte le opere riscoperte riscoperte nelle biblioteche, ecco, in età umanistica, a partire dalla fine del XIV secolo, ma quelle opere erano state copiate dai monaci benedettini e anche ovviamente dagli intellettuali e dai copisti della scuola palatina, come vedremo fra breve. Allora, pagina 246, la teoria dei due poteri. Pagina 246, studiatela tutta. Abbiamo già parlato del rapporto fra i due soli, il sole e la luna, le due spade, i due occhi. Insomma, nel Medioevo venivano usate diverse metafore per indicare i due poteri, cioè il potere del Papa e quello dell'imperatore. Solitamente si rimprovera, non del tutto a torto, alla Chiesa di avere avuto sovente la pretesa di dominare anche in campo politico. Ma spesso era anche il potere imperiale che pretendeva di controllare il papato. Qui avete il cosiddetto Decretum Gelasianum, in cui viene introdotta la celebre metafora del sole e della luna, e si trova un concetto che si ritroverà nella monarchia, perché così si dice, non demonarchia, ma nella monarchia di Dante, cioè. Dante dirà l'imperatore deve avere nei confronti del Papa lo stesso rispetto che un figlio ha nei confronti del padre. Qui si trova un concetto simile, anche se Dante accentuerà l'importanza della separazione, della distinzione, dell'autonomia, insomma, dei due poteri l'uno dall'altro. Tu sei certo, clementissimo figlio, che pur essendo per la tua dignità al di sopra degli uomini, tuttavia devi piegare devotamente il capo dinanzi a coloro che sono preposti alle cose divine. Quindi l'imperatore che deve chinare il capo, secondo Gelasio, ecco, deve chinare il capo di fronte al Papa. Così farà Carlo Magno, ad esempio, che verrà incoronato proprio dal Papa, incoronato imperatore del Sacro Romano Impero nella notte di Natale dell'Ottocento, è incoronato dal Papa, anche se sappiamo dal suo biografo Eginardo, autore della Vita Caroli con la K, che successivamente Carlo Magno si pentì del fatto di essersi lasciato incoronare dal Papa, perché così facendo aveva dato l'impressione di essere subordinato al potere pontificio. Aveva dato la sensazione che il potere religioso fosse superiore a quello politico e che il potere politico derivasse da quello religioso come per emanazione e fosse ad esso subordinato. A pagina 247 potete saltare la parte superiore. E invece Gregorio Magno, servo dei servi di Dio. Ecco, Gregorio Magno fu un grande papa, grande, appunto Magno venne soprannominato sul serio, così. Cioè, proprio per questo motivo, in un periodo difficile per la Chiesa Cattolica, un periodo in cui la Chiesa Cattolica rischiò seriamente di scomparire, di essere definitivamente soverchiata dal potere imperiale e anche lacerata dalle divisioni interne, in particolare dalla eresia ariana di cui abbiamo già parlato. Gli ariani negavano che Cristo avesse la natura divina, sostenevano che avesse solo la natura umana, che fosse uno straordinario uomo, ma soltanto un uomo. Abbiamo già visto che con il concilio di Nicea nel 325, per volontà di Costantino, l'eresia ariana era stata rifiutata e la Chiesa aveva riconosciuto Cristo omousios to patri, in greco, cioè della stessa sostanza del Padre, come viene detto ancora oggi nel Credo, che altro non è che il simbolo niceno, cioè l'ortodossia, insomma, decretata dal concilio di Nicea. Ecco, in particolare Gregorio Magno instaurò un rapporto di cordialità e di reciproca stima, insomma, con la regina Teodorinda, la regina longobarda, e in questo modo i Longobardi progressivamente abbandonarono l'arianesimo e si avvicinarono alla dottrina cattolica. Quindi Gregorio Magno ebbe questa grande importanza storica, e se vogliamo pose anche le basi dello Stato pontificio, perché difese la prerogativa pontificia, no, al patrimonio di Pietro. Insomma, la donazione di Costantino è un falso, come sarà dimostrato in età umanistica. Nel Medioevo si era ritenuto che questa falsa donazione di Costantino avesse posto le basi per il potere politico della Chiesa. In realtà si trattò di un processo graduale, quello della formazione dello Stato Pontificio. Gregorio Magno, ribadendo, difendendo, insomma, il diritto al patrimonio di Pietro, ebbe un ruolo importante in questo, ma sarà poi con la donazione di Sutri che lo Stato Pontificio troverà il proprio fondamento più solido. Allora, pagina 254. L'invasione, qui saltate la società longobarda, vabbè, Nel 569, no, l'Italia era stata liberata dai Goti nel 553-554 con la guerra gotica, ma nel 568-569 i Longobardi, guidati dal re Albuino, non invasero l'Italia, fu un trasferimento sostanzialmente pacifico. Sui circa 100.000 Longobardi che arrivarono, i guerrieri erano solo 35.000, c'erano anche donne e bambini, insomma non fu una vera e propria invasione, più che altro una migrazione. Ecco. L'influsso longobardo si estese anche ai ducati di Spoleto e di Benevento, quindi si estese anche all'Italia meridionale. C'è un bel documentario di cui vi metterò anche il collegamento, proprio sulle testimonianze dell'età longobarda in Italia. I bizantini mantennero il controllo di alcune parti della penisola, quindi studiate anche il paragrafo: i bizantini mantengono il controllo di alcune regioni, in particolare Ravenna. No? A Ravenna ci sono, come è noto, celebri testimonianze bizantine, ma anche gotiche, no? Basta andare a Ravenna per avere straordinarie testimonianze, no? Il mausoleo di Teodorico da una parte, ma anche gli splendidi mosaici bizantini dall'altra. Allora, il battistero degli Ariani, ad esempio, visto che abbiamo parlato di arianesimo, nel battistero degli Ariani viene sottolineata proprio l'umanità di Cristo, no? Si vede questa rappresentazione molto diversa da quella a cui siamo abituati. Il battesimo di Cristo, nella rappresentazione della figura di Cristo, viene sottolineata proprio la sua quasi carnale umanità. Ecco. Comunque, pagina 256, la frattura longobarda, pagina 256-257, studiatela bene, il racconto della conquista, qui potete anche saltarlo. Paolo Diacono fu comunque uno storico importante. Historia Langobardorum, la storia dei Longobardi, scritta da Paolo Diacono, opera in cui fra l'altro compare per la prima volta il nome Imola. Il nome Imola sarebbe proprio, secondo una delle ipotesi più accreditate, un toponimo, cioè un nome di luogo longobardo. Ecco. Ci sono in Scandinavia e anche in Ungheria delle città che hanno un nome simile a quello di Imola, e in effetti pare che fossero scandinave anche le origini prime dei Longobardi, la cui storia, come quella di tutti i popoli nomadi, viene ricostruita con molta difficoltà attraverso testimonianze molto frammentarie, perché i Longobardi ignorarono la scrittura fino al loro incontro con i latini. Ora, la storia dei Longobardi, come quella degli Unni, come anche quella dei Rom, ad esempio, è molto difficile da ricostruire, perché sono popoli che emergono in modo carsico, a tratti come per lampi, per bagliori, nella storia, attraverso fugacissimi accenni. C'è in Strabone, nel grande geografo Strabone, un accenno alle origini dei Longobardi, origini che si ritengono essere scandinave, almeno remotamente, insomma, scandinave. Allora, l'Italia è divisa in due dominazioni. Sì, allora, rimase anche nel regno longobardo la distinzione fra longobardi e latini. Su questo aspetto è incentrato proprio quel brano del discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, che dovete analizzare in quella prova scritta che ho inserito nello spazio web. Manzoni dice: non dobbiamo pensare che i due popoli, cioè i latini e i longobardi, si siano fusi in modo pacifico e siano divenuti un popolo unico. In realtà i Longobardi erano gli oppressori, i Latini erano gli oppressi. La tragedia Adelchi di Manzoni, di cui forse avete già parlato, o di cui, insomma, parlerete in quarta o forse in quinta, allude proprio alle vicende di cui stiamo parlando, cioè Carlo Magno, re dei Franchi, che poi diventerà imperatore del Sacro Romano Impero. Carlo Magno ripudia Ermengarda, figlia del re longobardo Desiderio, che gli era stata promessa in sposa. Ecco, la ripudia perché, per ragioni di opportunità politica e anche per la sua alleanza con il Papa, doveva muovere guerra contro i Longobardi. Guerra che, ecco, Carlo Magno appare come un personaggio molto negativo nella Delchi, come un uomo meschino, calcolatore, cinico, opportunista, anche se dalla parte giusta, paradossalmente, secondo Manzoni, c'era proprio Carlo che doveva portare a termine una missione divina, se vogliamo, cioè liberare l'Italia dai Longobardi e ripristinare la latinità e la cattolicità dell'Italia, sebbene anche i Longobardi si fossero gradatamente convertiti al cristianesimo, anche se rimanevano nella mentalità longobarda tracce di arianesimo. I barbari, anche i goti, no? Tendevano ad essere ariani, cioè a sottolineare l'umanità piuttosto che la divinità di Cristo, perché la loro mentalità non era raffinata, non era filosofica, non era incline all'astrazione, quindi i Goti e i Longobardi stentavano a comprendere questa sintesi di umanità e divinità nella persona del Cristo. Dunque, pagina 259, i Longobardi si convertono al cattolicesimo. Abbiamo già parlato di Gregorio Magno, del suo legame con la regina Teodolinda, e appunto la conversione dei Longobardi favorì la loro civilizzazione. Ricordate anche il battesimo di Clodoveo, prima ancora, no? Noi abbiamo visto il battesimo di Clodoveo come evento decisivo, no? Il re dei Franchi, Clodoveo, che si converte al cattolicesimo e pone le basi per quello che diventerà poi il regno dei Franchi e il Sacro Romano Impero. Clodoveo come nuovo Costantino, come veniva definito in una fonte dell'epoca, no? La conversione di un imperatore, di un sovrano al cattolicesimo ha anche un significato politico, perché l'unità religiosa, l'alleanza fra il trono e l'altare, piaccia o non piaccia, è comunque un fattore di stabilità e di forza per un. Era, ecco, all'epoca, un fattore di stabilità e di forza per uno Stato. Allora, pagina 261, con l'editto di Rotary il re inizia a legiferare. Allora, come vi ho già detto, l'editto di Rotary ebbe una grande importanza perché fissò per iscritto la legislazione barbarica che precedentemente era tramandata per via orale, quindi era soggetta ad alterazioni e anche ad arbitri e a iniquità nel momento in cui veniva applicata. Inoltre, la faida, cioè la vendetta, fu sostituita dal Guidrigildo, cioè dal risarcimento. Insomma, chi subiva un'ingiustizia, un torto, un affronto, non doveva vendicarsi in modo violento, ma doveva pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento. Questo è un passo avanti, non da poco. Noi lo diamo per scontato, insomma, è difficile che oggi uno si faccia giustizia da sé, è meglio che non vada a farsi giustizia da sé, insomma, uno subisce un torto. Un'ingiustizia, ritiene di aver subito un torto, un'ingiustizia, un'offesa, un furto, un oltraggio, qualunque cosa e sporge denuncia, no? Quindi, insomma, è un passo avanti notevole per la civiltà, questo che la vendetta sia sostituita dalla giustizia, ecco. Anche se comunque nell'editto di Rotary permangono, come si vede anche da quell'estratto che si trova in quella piccola antologia di fonti, non più di 7-8 pagine che ho caricato nel sito, permangono nell'editto di Rotary notevoli ingiustizie, differenze sociali fra i nobili e gli umili. Ovviamente i nobili erano favoriti nella giustizia, dovevano pagare. Un nobile che faceva un torto ad una persona umile doveva pagare molto meno di quello che doveva pagare una persona umile che faceva un torto a un nobile. La persona umile poteva anche essere condannata a morte. Ci sono leggi assurde, norme assurde. Chi uccide uno schiavo deve pagarne il prezzo come se fosse un oggetto, come se fosse un oggetto inanimato che è stato rotto. Ci sono clausole veramente assurde, no? Addirittura nell'editto di Rotary è scritto che allora, la pena prevista per chi taglia la coda ad un cavallo è meno grave di quella prevista per chi picchia un'ancella fino a farla abortire. Ecco, no? Picchiare una donna fino a farla abortire era considerato meno grave che tagliare la coda ad un cavallo. Ecco, ci sono queste La donna ovviamente non ha la stessa dignità e gli stessi diritti dell'uomo. C'era, ecco, un'usanza anche se vogliamo poetica, cioè il dono del mattino, ricordavo anche la denominazione in tedesco, Morgengab mi sembra, parola germanica, no? Il dono del mattino, cioè l'uomo per sposare una donna doveva pagare una certa somma, insomma, non dico che le donne fossero comprate, ma insomma quasi. E dopo la prima notte di nozze c'era questo simbolico dono, il dono del mattino, simbolico, non solo simbolico, una somma di denaro che l'uomo dava alla donna che costituiva la sua dote. Dunque, ecco, qui avete anche un brano, quindi saltate alla pagina 269, ecco, c'è un brano dell'Editto di Rotary. Per le continue fatiche dei poveri, così come anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior potere, esazioni vuol dire prelevamenti di denaro, obblighi a pagare tasse e tributi. Per quanto riguarda il risarcimento di lesioni o ferite che si verifichino tra uomini liberi, si paghino le composizioni in questa misura, secondo quanto è prescritto sotto, ponendo fine alla faida, cioè all'inimicizia. Fra uomini liberi, gli schiavi ovviamente non avevano gli stessi diritti, dovevano subire e stare zitti. Tutt'al più il padrone poteva essere risarcito se uno schiavo veniva danneggiato o ucciso, ma insomma, lo schiavo era considerato a tutti gli effetti un oggetto, quindi chi ammazzava uno schiavo doveva pagare un risarcimento al padrone di quello schiavo, cosa davvero assurda. Delle dita della mano, se qualcuno stacca il pollice della mano di un altro, gli paghi una composizione, cioè un risarcimento, pari alla sesta parte del valore di costui. Cioè di quanto quell'uomo sarebbe valutato se lo avesse ucciso. È interessante questo fatto, no? L'uomo riceve un valore in denaro, no? Un uomo vale 100, un altro vale 1000, allora se tu tagli un pollice a un uomo che vale 1000 dovrai pagargli, non so, 50, se invece tagli il pollice di un uomo che è valutato 100, allora dovrai pagargli, beh, se non so fare le proporzioni, fate voi. Beh, insomma, no? Abbastanza assurdo, no? Quasi sotto certi aspetti anche agli uomini liberi, anche agli uomini liberi veniva attribuito un valore in denaro. Del secondo dito, addirittura, se qualcuno stacca il secondo dito della mano di un altro, paghi una composizione di 16 soldi, solidi, vabbè, da cui poi il solido era una moneta, da cui poi la parola soldo. Ecco, interessante, se una donna trama per la morte del proprio marito da sé o per interposta persona, cioè tramite un altro, con l'aiuto di un altro, sia facoltà del marito fare di lei ciò che vuole, e così pure dei beni della donna. Se la donna tramava, cioè ordiva un piano per uccidere il marito, allora il marito poteva fare di lei ciò che voleva, poteva anche farla uccidere. Ma se la nega, si è consentita ai suoi parenti scagionarla, o con un giuramento o mediante un campione, cioè con un duello. La donna che riceveva un'accusa così grave come quella di aver cercato come quella di avere tramato per far uccidere il marito, poteva cercare di discolparsi nominando un campione, cioè un cavaliere, che doveva battersi in suo favore in un duello. A noi sembra abbastanza, anzi, del tutto assurdo, insomma, no? Uno viene accusato di omicidio e cosa fa? Nomina qualcuno che si batta al suo posto, insomma. Il duello che avrà poi nel Medioevo e anche nel Rinascimento fino all'età barocca una codificazione così complessa, così articolata, il duello, se avete visto nei Promessi Sposi, no? Nei Promessi Sposi c'è tutta una disquisizione sul duello, il duello, no? Che viene affrontato da Fra Cristoforo quando non era ancora frate e non era ancora Cristoforo. Ecco, il duello era un'usanza barbarica che viene introdotta nel diritto latino proprio in questo periodo alto medievale, successivamente viene codificata anche in modo molto complesso con appositi trattati che vengono citati proprio in quella pagina significativa dei Promessi Sposi. Allora, iniziamo a parlare dell'Islam. Quindi facciamo un bel salto. Dunque, Saltate a pagina 300, dovete fare Maometto il profeta, quindi questo paragrafo 2, fatelo tutto. Allora, la parola Islam non significa sottomissione, di solito viene tradotta con sottomissione, ma più propriamente significa abbandono a Dio, ha la stessa radice dell'ebraico shalom, pace. Si potrebbe citare Sant'Agostino, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Sant'Agostino ovviamente non era affatto musulmano, anche perché l'Islam non c'era ancora, era decisamente cristianissimo. Ma questa idea del trovare pace in Dio si trova, insomma, si trova già nel cristianesimo. Quindi effettivamente la parola Islam potrebbe essere tradotta con pace, anche se non tutte le correnti islamiche anche oggi sono pacifiche. L'Islam integralista, insomma, è decisamente bellicoso, ma anche questo concetto di jihad, che viene impropriamente tradotto guerra santa, andrebbe tradotto sforzo propriamente, o se preferite ascesi, insomma, desiderio di avvicinarsi a Dio e di testimoniare l'amore di Dio con le proprie opere. Comunque andiamo con ordine. Il profeta Maometto nacque da una famiglia di mercanti di modeste condizioni economiche, sposò la ricchissima vedova Khadija e se non avesse avuto l'appoggio di questa grande donna, si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e beh, diciamo, in questo caso è vero. Ecco, prima di Maometto, cioè nella cosiddetta età pre-islamica, nel mondo arabo c'erano popolazioni tribali, nomadi, beduini, insomma, che praticavano culti animistici e politeistici. Maometto invece, ispirandosi chiaramente all'ebraismo e al cristianesimo, ma forse soprattutto, beh, anche sia all'ebraismo che al cristianesimo, perché sia Abramo che Maometto, sì, buonanotte, sia Abramo che Cristo vengono citati nel Corano con grande rispetto. Ecco, Maometto impose un rigoroso monoteismo. Inizialmente i suoi oppositori parvero prevalere su di lui, tanto che ci fu il periodo dell'Egira, cioè una sorta di esilio volontario alla Medina, una sorta di isolamento, insomma, in cui comunque Maometto rafforzò le proprie convinzioni, diffuse la propria predicazione, strinse attorno a sé un gruppo assiduo di fedeli, tanto che poi poté tornare alla Mecca e trionfare sui suoi nemici ed imporsi come il grande profeta con la P maiuscola. Ecco, il 622, proprio l'anno dell'Egira, viene considerato come anno iniziale dell'era islamica, pagina 301 in basso. Ecco, qui viene citata, pagina 302 in basso, la Kaaba, la pietra nera, intorno alla quale si svolgono maestose processioni circolari. In realtà il culto della pietra nera era già pre-islamico, ecco, un culto pre-islamico che viene fatto proprio anche dall'Islam. La pietra nera era con tutta probabilità un meteorite, ma questo non bisogna dirlo ai musulmani perché per loro è una bestemmia. Per loro la pietra nera è un messaggio inviato da Dio, praticamente. Già nel mondo pre-islamico c'era il culto di questa misteriosa pietra nera, tuttora custodita nella Kaaba. Beh, insomma, se cercate su YouTube Kaaba processione trovate immagini davvero solenni e suggestive, perché ci sono queste file di fedeli che si muovono intorno alla pietra nera, intorno al cubo che custodisce questa pietra nera, quasi come se quel cubo fosse il fulcro, il centro dell'universo, e queste file concentriche di fedeli fossero le sfere celesti. Insomma, una visione un po' che fa pensare quasi al paradiso di Dante. Ecco, anche se. Vabbè, comunque, nel mio libro c'è un errore di pagina. No, no, scusate, niente. 302, ecco, pagina 303, e sono studiate anche le pagine 303, 304, 305 e 306 in alto. Il Corano, secondo i musulmani, il Corano, testo sacro dell'Islam, secondo i musulmani, in realtà fu dettato da Dio. Per un musulmano dire che fu scritto da Maometto è una bestemmia, anche perché Maometto sarebbe stato analfabeta, fino a quando Dio non gli parlò e gli suggerì, gli ispirò, insomma, il Corano. Maometto viene considerato dai musulmani il più importante di tutti, l'ultimo e il più importante di tutti i profeti. Abramo e Cristo vengono comunque visti con rispetto, ma vengono considerati come profeti minori, che avevano solo parzialmente anticipato la grande verità rivelata poi da Maometto. Nel Corano anche, si parla anche di Maria, della Madonna, insomma, con notevole rispetto. E quindi non è che il Corano contenga disprezzo o odio nei confronti del cristianesimo, al contrario. Tuttavia i musulmani rimproverano, contestano insomma ai cristiani il loro presunto politeismo, cioè i musulmani dicono: come fate a credere nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo? Allora siete politeisti, invece Dio è uno solo. Ecco. E ovviamente per i musulmani Cristo è soltanto uno dei profeti che sono venuti prima di Maometto, ma Maometto insomma è il profeta definitivo e più importante. Qui vengono riassunte le caratteristiche fondamentali, i pilastri insomma della fede islamica. Io non me li ricordo tutti, comunque. La fede, il monoteismo, ecco questo ovviamente, beh, non avrai altro Dio fuori di me, è anche il principio fondamentale dell'ebraismo, le tre grandi religioni monoteistiche, no? Hanno questo fondamento, no? Il Dio unico. La preghiera obbligatoria, la famosa preghiera rivolti alla Mecca, l'elemosina, la beneficenza, compiere il viaggio alla Mecca almeno una volta nella vita, il digiuno, cioè il famoso Ramadan. Qui c'è scritto Ramadan, ma se non sbaglio, beh, il digiuno, no? In realtà il digiuno viene praticato soltanto durante il giorno. Il musulmano può mangiare a partire dal momento in cui non si distingue più un filo bianco da un filo nero, quindi a partire dal momento in cui calano le tenebre, scende l'oscurità. E qui c'è anche un discorso qui saltate le pagine, c'è anche un discorso interessante sul velo islamico. Qui nelle pagine 310-311 ci sono esempi di veli islamici disegnati da grandi stilisti. Quindi non è detto che il velo islamico sia per forza qualcosa di arretrato, di retrogrado o di contrario alla libertà della donna. Vabbè. Nel Corano non c'è il precetto del velo, si accenna soltanto alla donna velata. L'obbligo fu introdotto successivamente nella tradizione, ma l'idea del velo non è tanto quello di umiliare, non è tanto quella di umiliare o di sottomettere la donna, quanto quella di sottolinearne la sacralità, cioè il velo islamico protegge la donna, la nasconde dalla vista di tutti, ma ne difende la sacralità anche, no? Quindi è una forma di rispetto più che di umiliazione. Quando viene imposto, può essere. Ogni tanto saltano fuori nelle cronache queste storie assurde, no? E tragiche, no? Ora, padre islamico integralista uccide la figlia perché la figlia non voleva più indossare il velo. Ecco. Paradossalmente, in paesi come la Turchia, ad esempio, la Turchia è un paese più del 90% musulmano, ma in teoria sarebbe vietato portare il velo islamico in pubblico. Anche in Francia ci sono queste leggi. La laicità dello Stato vieta di indossare il velo in pubblico e in quel caso alcune donne rivendicano il diritto di portare il velo e per loro il velo è sinonimo di libertà e di appartenenza ad una tradizione culturale. Quindi insomma è tutto relativo. Allora, pagina 312, concetto fondamentale, jihad, impropriamente tradotto con guerra santa. Vedete l'importanza della linguistica adesso. Nessuno di noi sa l'arabo, però vedete, la radice, perché le lingue semitiche, sia l'arabo che l'ebraico, ma prima ancora le lingue mesopotamiche, l'accadico, no? Sono basate su queste radici esclusivamente consonantiche, solitamente trilittere. Allora vedete, bastano due lettere lievemente diverse, vedete, QTL, In realtà jihad, vedete, da jihad, non significa guerra, ma sforzo. Quindi la traduzione di guerra santa è proprio sbagliata, sarebbe come fischi per fiaschi. Jihad significa sforzo, e ecco, cioè la parola indica più che altro uno sforzo spirituale. Si potrebbe tradurre con ascesi, un po' quella che nella mentalità cristiana, nel misticismo cristiano, era l'ascesi, insomma, no? Quando si dice vita ascetica, fare dei sacrifici per sottoporsi a delle privazioni per avvicinarsi a Dio, ecco, per rendersi degni di Dio. A dire il vero, come spiega bene il vostro libro, pagina 312, allora, nel Corano ci sono affermazioni anche diverse, ci sono versetti in cui il Corano dice che bisogna uccidere gli infedeli sempre e comunque, altri invece in cui si dice che nella guerra non si deve cedere, non si deve esagerare in crudeltà, e soprattutto i cristiani e ebrei vengono definiti i protetti. Cioè, in una società islamica i cristiani e gli ebrei possono vivere, possono anche continuare a professare la propria religione, non possono fare proselitismo ovviamente, non possono andare in giro a predicare la propria religione per attrarre altre persone verso la loro religione, perché nella società islamica tradizionale l'apostasia, cioè l'abbandono del credo musulmano per abbracciare un'altra religione, è addirittura punito con la morte, è una cosa gravissima. Ecco, i protetti possono continuare a professare liberamente la propria religione, devono pagare una tassa, ecco, in compenso non fanno il servizio militare. Quindi, insomma, uno vi dice: vabbè, pagate una tassa, in compenso non andate in guerra a farvi ammazzare, e uno dice: affare fatto, paga la tassa e buonanotte. Comunque, praticamente qua, allora, c'è una sintesi a pagina 315, visto che questo è un capitolo molto denso. Allora, ecco, non ho parlato della distinzione così importante fra sunniti e sciiti. Ecco, alla morte di Maometto ci fu un contrasto fra i sunniti e gli sciiti. Gli sciiti ritenevano che gli autentici successori di Maometto fossero i discendenti del cugino nonché genero Ali, che aveva sposato Fatima, la figlia di Maometto. Dall'altra parte, invece, c'era un'altra fazione, quella dei sunniti, i quali ritenevano che invece il potere spettasse ad una dinastia di califfi, la dinastia Omayyade, e inizialmente prevalse proprio la dinastia Omayyade. Ah, ecco, ne parla successivamente, pagine 318-319, quindi studiate bene anche pagine 318-319, perché quando si parla di, e anche pagina 320, il paragrafo in alto, la umma si divide, la nascita dello scismo. Sono concetti piuttosto complessi, non dovete ricordarli nei minimi dettagli, tutti questi nomi arabi ovviamente, non importa ricordarli, ma è questa distinzione fra sunniti e sciiti è effettivamente importante, perché se ne parla spesso ancora oggi. Cioè, non solo l'Islam integralista è piuttosto bellicoso nei confronti delle altre religioni, in particolare del cristianesimo, basti pensare ad Al Qaeda, all'ISIS, ai Boko Haram, sono questi movimenti che vorrebbero imporre con la forza la religione islamica e ottenere, consolidare il proprio potere attraverso l'imposizione religiosa. Ma anche all'interno dello stesso Islam, fra sunniti e sciiti, ci sono contrasti spesso sanguinosi. Allora, ecco, quindi potete saltare a pagina 320, il rafforzamento e l'espansione dell'impero islamico. Per questo basta guardare la cartina che si trova alla pagina 328. Beh, insomma, guardate, il califfato abbaside arrivò ad abbracciare tutte le terre indicate in verde, quindi, insomma, beh, interessante notare che i musulmani arrivarono a governare la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, la Spagna, La loro avanzata in Francia, come vedremo, fu fermata da Carlo Martello con la battaglia di Poitiers. Comunque andiamo con ordine. Allora, ecco, a pagina 323-24 ricordate bene la figura del califfo Beh, insomma, adesso i nomi arabi, ricordarli non è facile, ma insomma, gli arabi, e questo è il punto importante, fecero si appropriarono insomma, della cultura greca. Ecco, in particolare bisogna ricordare che Aristotele, no, la filosofia di Aristotele, era stata dimenticata in Occidente perché nessuno sapeva più il greco, attraverso traduzioni dal greco al siriaco, dal siriaco all'arabo e infine dall'arabo al latino, Aristotele tornò in Occidente. Il pensiero di Aristotele, che avrà un'importanza fondamentale per la filosofia medievale, anche per il pensiero di Dante, tornerà in Occidente attraverso questa importantissima mediazione araba, dal greco al siriaco, dal siriaco all'arabo e dall'arabo al latino. Quindi sembra davvero paradossale che anzi, il più grande filo, uno dei più grandi, insomma, insieme a Platone, filosofo greco, il maestro di color che sanno, come dirà Dante, così è tornato idealmente all'Occidente passando attraverso questa trafila di traduzioni orientali. Il grande filosofo arabo Averroè commentò le opere di Aristotele, viene ricordato anche egli da Dante con grande enfasi e rispetto, no? Averrois che il gran comento feo, e gli influssi averroistici, come vedrete, penso già alla fine di quest'anno, cominciando a studiare la poesia medievale, no? Il dolce stil novo, il pensiero averroistico, quindi la filosofia araba, avrà un notevole influsso sull'Occidente medievale, in particolare sullo stesso Dante, insomma. Forse il modo migliore per studiare la storia medievale è proprio leggere attentamente Dante, e a partire da Dante, che è un po' la sintesi del Medioevo, ecco, la summa della cultura medievale, studiare tutta questa interessante storia. Allora, saltate, allora, la pagina, un altro bel salto. Beh, qui ecco, a pagina 335 avete il cosiddetto Hadith di Gabriele. Insomma, la dottrina islamica non è contenuta solo nel Corano, ma anche nei detti del profeta, cioè frasi attribuite a Maometto. Del resto c'era anche nell'ambito cristiano una tradizione di logia, cioè in greco discorsi, frasi, parole attribuite a Cristo. Solo che oggi la Chiesa, la dottrina cattolica, considera insomma quelle frasi attribuite a Cristo come apocrife, cioè false. Mentre nella tradizione islamica questi detti del profeta hanno un'importanza fondamentale. In questo hadith si trovano sintetizzati i pilastri della fede islamica di cui abbiamo già parlato. Dice, il profeta rispose che la cosa più importante è che tu creda in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi messaggeri e nell'ultimo giorno, cioè il giorno del giudizio di Dio, e che tu creda nel decreto divino, sia nel bene che nel male. Dunque, ecco, saltate alla pagina 346. Io ho già detto che gli arabi si erano espansi nel Mediterraneo fino a dominare anche la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, la Spagna, ed erano arrivati fino alle soglie dell'odierna Francia, e furono respinti da Carlo Martello nella battaglia di Poitiers. 732. Allora, forse l'importanza della battaglia di Poitiers è stata ingigantita. Vi ho inserito una scheda anche su questo. La battaglia di Poitiers è stata per lungo tempo vista come un uno spartiacque, un discrimine fondamentale nella storia d'Europa, si è detto un grande storico inglese, diceva, se Carlo Martello fosse stato sconfitto a Poitiers, la cristianità sarebbe stata cancellata e noi oggi saremmo tutti musulmani, parleremmo tutti arabo, eccetera. Tuttavia questa grande importanza attribuita alla battaglia di Poitiers è stata ridimensionata. Tutto sommato, gli arabi non volevano veramente espandersi anche in Francia, insomma, si accontentavano della Spagna, c'erano anche problemi dinastici, contrasti interni in quel periodo nel califfato islamico, quindi gli arabi avrebbero abbandonato comunque la conquista. D'altra parte, le fonti storiche di cui noi disponiamo non descrivono una grande battaglia, ma una piccola scaramuccia, un piccolo scontro. Quindi anche la battaglia di Roncisvalle, che sicuramente, la rotta di Roncisvalle, no? Che sicuramente conoscete perché ispirò la celebre Chanson de Roland. Nella realtà, la rotta di Roncisvalle fu una scaramuccia di retroguardia, una battaglia di nessuna importanza, e non c'entravano nemmeno i musulmani perché erano dei baschi, gli aggressori di Orlando a Roncisvalle erano dei baschi, quindi nulla a che vedere con i musulmani. Andiamo con ordine. Ecco, è interessante però notare, qui non è importante tanto l'evento in sé per sé, perché fu una battaglia tutto sommato minore, sono importanti le fonti storiche che ne parlano. Il termine europei compare per la prima volta in una cronaca medievale che fa riferimento proprio alla battaglia di Poitiers, e in quel frangente, no, i cristiani vengono definiti come europei contrapposti agli arabi. È significativo che, insomma, il concetto di popolo europeo sia legato in origine all'idea di una cristianità contrapposta alla religione islamica, il che ovviamente non significa che oggi si debba dire no, cacciamo via tutti i musulmani, cosa vogliono da noi, noi siamo cristiani, no, queste sono idee davvero medievali nel senso negativo del termine, ma storicamente è così. Allora, saltate le pagine 347-348, ecco, invece molto importante, pagine 349-350, Carlo Magno e la rinascita dell'impero. Come vi ho già detto, Carlo Magno, re dei Franchi, fu incoronato imperatore nella notte di Natale dell'800. Vanno però ricordate le sue imprese militari precedenti, ricordate in sintesi la riconquista dell'Italia, ne abbiamo già parlato, Carlo Magno che sconfigge l'esercito di Re Desiderio dopo aver ripudiato Ermengarda. Questi eventi ispireranno la Delchi di Manzoni, quindi non si capisce nulla. O si capisce poco della letteratura italiana senza conoscere a grandi linee, perché poi uno non è che debba diventare un esperto, ma insomma, senza conoscere a grandi linee almeno questo periodo storico. Ecco, purtroppo, no, Carlo Magno fu anche un genocida a tutti gli effetti, almeno due veri e propri genocidi furono compiuti, il genocidio dei Sassoni e quello degli Avari. In particolare, il capitulare De Partibus Saxonie è un documento, non so se mi sembra che ci sia in una di quelle schede che vi ho messo lì, ma comunque, nel capitulare De Partibus Saxonie viene imposta ai Sassoni la religione cattolica, i sassoni sono obbligati ad abbandonare i loro antichissimi riti germanici e viene prevista la pena di morte per chiunque continui a professare questi culti germanici. Quindi non bisogna idealizzare eccessivamente la figura di Carlo Magno. Gli imperatori di Bisanzio ovviamente non presero bene l'incoronazione di Carlo Magno, perché dissero: ma come, gli imperatori siamo noi, cosa vuole questo Carlo Magno? Siamo noi legittimi eredi dell'impero. Carlo Magno si affrettò a mandare delle lettere all'imperatore di Bisanzio dicendo: cari imperatori di Bisanzio, state tranquilli, state sereni, insomma, perché io non sono interessato all'Oriente, voi state venerà a Bisanzio, pensate al vostro impero, che io penso al mio. E ci furono anche rapporti cordiali, corrispondenze pacifiche, insomma, serene fra i due imperi. Ecco, a pagina 351 avete queste fonti sulla vita sull'incoronazione di Carlo Magno. Ecco, la più significativa è, o meglio, ci sono queste due fonti contrapposte: la vita di Leone III nel pontificale romano, fonte filo pontificia, cioè favorevole al Papa, che presenta questo episodio come emblematico del fatto che dell'importanza della religione ai fini della gestione del potere. Cioè, questa fonte favorevole al Papa presenta come un fatto positivo la sottomissione di Carlo Magno al pontefice. Subito il Santissimo Sacerdote Pontefice unse re il suo eccellentissimo figlio Carlo con l'olio santo nello stesso giorno del Natale di nostro Signore Gesù Cristo. Questa unzione, no, che simboleggia proprio l'investitura quasi da parte del Papa nei confronti del Pontefice. Eginardo, che è una fonte più attendibile, perché Eginardo era molto vicino a Carlo Magno, Eginardo fu una figura straordinaria, fu anche architetto, oltre che storico e scrittore. La Cappella Palatina fu progettata proprio da Eginardo. Ecco, la vita Caroli di Eginardo così recita: in seguito sopportò con grande tolleranza l'odio suscitato dalla Vereggia e assunto quel titolo, sdegnandosi soprattutto di ciò. Gli imperatori romani, ossia bizantini, vinse la loro arrogante fierezza con la sua magnanimità, nella quale indubbiamente li superava di gran lunga, e ottenne ciò mandando loro frequenti ambascerie, cioè missioni diplomatiche, e chiamandoli fratelli nelle sue lettere. Prima dice: giunse a dichiarare che in quel giorno, anche se era una delle più grandi festività, mai sarebbe entrato in chiesa se avesse potuto supporre qual era il progetto del pontefice. Qui ci sono i due aspetti fondamentali di questo. Diciamo, queste poche righe di Eginardo ci illuminano su questi due fondamentali aspetti. L'incoronazione, cioè, Carlo Magno non fu molto contento di questa incoronazione, perché essa dava la sensazione che il potere del Papa fosse superiore a quello dell'imperatore, e i rapporti cordiali con gli imperatori bizantini, che erano molto preoccupati perché temevano che Carlo Magno volesse espandersi anche ad Oriente. Allora, pagina 352, la divisione amministrativa dell'impero. Vabbè, questo studiatelo anche se non è proprio entusiasmante. Contee, Marche. Le Marche erano territori di confine, le contee, vabbè, erano da conte, erano, insomma, delle province, delle sottoscrizioni. Ecco, interessanti le figure dei missi dominici, vorrebbe dire gli inviati dell'imperatore. Era un impero molto vasto, ovviamente Carlo Magno non poteva controllarlo tutto direttamente, anche perché non c'era mica il satellite, non c'era mica Google Maps, quelle robe lì, insomma, quindi nel Medioevo. Come faceva a controllare lui tutto l'impero? Era impossibile. Allora si serviva di questi missi dominici, cioè di questi emissari dell'imperatore che venivano inviati nelle diverse province per supervisionare, insomma, il funzionamento dell'impero. Pagina 352, qui in basso potete saltare la produzione legislativa, i capitolari, vabbè. Invece una riforma monetaria, vabbè, venne introdotta questa moneta che però aveva un unico taglio praticamente, uno, quindi una moneta molto rudimentale. Qui viene citato Carlo Maria Cipolla, importantissimo storico dell'economia. Carlo Maria Cipolla sottolineava l'importanza del denaro. Uno dice: beh, i soldi sono importanti, non c'è bisogno di Carlo Maria Cipolla per capirlo. Ma insomma, il significato anche culturale del denaro, no? Nel corso dei secoli, insomma, purtroppo, senza soldi, senza lilleri non si lallera, insomma. Comunque, Carlo Maria Cipolla dice: un sistema monetario consistente in un solo pezzo monetale, cioè in un solo taglio, come se ci fossero solo le monete da un euro praticamente, senza multipli né sottomultipli, era evidentemente quanto mai primitivo e rifletteva la condizione economica estremamente arretrata dell'Europa del tempo. Questo perché si commerciava davvero poco. si commerciava davvero, davvero poco, si praticava più che altro il baratto, cioè lo scambio, insomma, io ti do questo, tu in cambio mi dai quello. Beh, è interessante notare che anche i bitcoin hanno praticamente un solo taglio, cioè un bitcoin, no? Poi il valore oscilla, corrispettivo in euro oscilla, quindi paradossalmente proprio la moneta più avanzata, più moderna, più tecnologica, questo bitcoin, è analogo al denaro di Carlo Magno, cioè un solo taglio, uno vale uno, come se ci fosse solo la moneta da un euro. Allora, vabbè, qui si parla della scuola palatina, a cui ho già fatto cenno. La scuola palatina doveva formare dei funzionari dell'impero, i quali dovevano essere molto colti, molto istruiti, sapere molto bene il latino. Ma fu anche un periodo questo di fioritura culturale, di trasmissione del sapere, perché anche in ambito carolingio, anche nella scuola palatina, furono copiati molti testi classici, testi latini. Quindi forse se ora dovete studiare il latino è anche colpa di questi signori qua, insomma, di questi insomma, prima dei monaci benedettini, poi di questi funzionari dell'impero carolingio. Ecco, Carlo Magno colto e analfabeta, pagina 354 in basso. In effetti Carlo Magno rimase sempre analfabeta, non imparò mai a scrivere, perlomeno, forse a leggere. Sì. Ciò nonostante imparò a capire il latino, probabilmente anche a parlarlo, e si faceva leggere dei brani del De Civitate Dei di Sant'Agostino. Non è casuale che gli piacesse tanto Sant'Agostino, perché l'ideologia del Sacro Romano Impero era tipicamente agostiniana, cioè c'era questa idea dell'impero come ordinamento voluto da Dio, stabilito dalla volontà divina. Saltate, le pagine 355-356. Fate il vassallaggio alla pagina 357 e 358. Come già sapete, penso fin dalle medie, se non fin dalle elementari, l'imperatore investiva un vassallo del compito di governare un feudo. E inizialmente, alla morte del vassallo, il feudo tornava all'imperatore. Progressivamente, però, con il capitolare di Chiersi e con la Constitutio de Feudis, i feudi divennero ereditari, prima i feudi maggiori, poi i feudi minori. È ovvio che se i feudi diventano ereditari, alla morte del vassallo, del feudatario, non tornano all'imperatore ma vengono trasmessi al figlio, il potere centrale si indebolisce e l'impero progressivamente si disgrega. Pagina 365. Il Trattato di Verdun delinea due aree linguistiche culturali. Nell'842. 2 anni dopo la morte di Ludovico il Pio, qui abbiamo saltato un po' di imperatori successivi perché altrimenti non si finisce più, ma insomma, ecco, pronunciarono il celebre giuramento di Strasburgo. Entrambi giurarono prima in latino, poi ciascuno nella propria lingua. Quindi iniziano ecco, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico. Inizia a delinearsi una distinzione fra nazioni diverse, cioè tra antenati dei francesi da una parte e antenati dei tedeschi dall'altra. Diciamo che questo è un episodio fondamentale perché, no, 842, iniziano a prendere forma e a distinguersi identità nazionali e linguistiche diverse, quella che poi diverrà la Germania e quella che poi diverrà la Francia. Anche linguisticamente, qui non stiamo a fare un'analisi linguistica, qui avete anche i testi a pagina 367 in basso, ma no, questo non c'entra niente, questo, qui si parla di vassallaggio, lo potete saltare. Insomma, da qualche parte qui c'è il testo dei giuramenti di Strasburgo, ovviamente si tratta di lingue molto diverse dal francese e dal tedesco attuali. Ma è significativo che già siano attestate queste lingue nazionali, mentre la prima testimonianza della lingua italiana, i placiti cassinesi, ecco, documento meno importante dal punto di vista storico e politico, ma ugualmente importante sul piano della storia della lingua, è di poco successiva. Inizio del X secolo, quindi è questo il periodo in cui gradatamente emergono le prime testimonianze scritte di queste proto-lingue nazionali. Ecco. Pagina 366. È quello che abbiamo già detto, insomma, progressivamente i feudi diventano ereditari e quindi il potere centrale si indebolisce e l'impero si avvia alla disgregazione. E in particolare, ecco, pagina 365 in basso, Carlo il Grosso viene deposto nell'anno 884 e questo temporaneamente segna la fine del Sacro Romano Impero, che però risorgerà dalle proprie ceneri, perché anche se per un periodo ancora breve, perché allora, saltate a pagina 376 in alto. Ecco, Ottone I nel 962 si farà incoronare imperatore da Papa Giovanni XII. Quindi ancora l'imperatore incoronato dal Papa. Il privilegium Ottonis. Io vi ho riportato in quelle fonti che sono online una pagina dell'opera di Gerberto di Aurillac. Gerberto di Aurillac era un grande intellettuale che divenne anche papa ed era il maestro ideale di Ottone III. Il privilegium, no, scusate, ho fatto confusione. Ottone I promulgò il privilegium Ottonis, in cui viene affermato il diritto dell'imperatore di nominare il papa, quindi doveva essere. No, praticamente l'imperatore si attribuiva il potere di confermare l'elezione dei nuovi pontefici, tanto che Ottone depose lo stesso Papa Giovanni XII che l'aveva incoronato, quindi è così un braccio di ferro fra il potere dell'impero e quello della Chiesa. Ecco, più interessante la figura di Ottone III, ecco, discepolo di Gerberto di Aurillac. Ecco, nell'ideologia di Ottone III che viene enunciata da Gerberto di Aurillac era prevista proprio la renovatio imperii, cioè una restaurazione del grande ideale del Sacro Romano Impero, di questa fusione fra cultura romana e civiltà cristiana, la stessa che animerà il pensiero che animava il pensiero di Agostino e che animerà quello di Dante. Vabbè, la pagina 376, qui non importa ricordare cosa successe dopo la morte di Ottone III, insomma. Allora, vabbè, breve annotazione di storia economica, pagina 378, le innovazioni in agricoltura, l'introduzione del mulino ad acqua e del vomere ricurvo fece aumentare un po' la produzione agricola, quindi un progresso economico. Qui avete, ecco, a pagina 385 il testo dei giuramenti di Strasburgo, vedete, pro Deo amor et pro Christian populo et nostro commun salvament dist di in avant in quanto Deus avir et podir medunat. Questa è una specie di provenzale, insomma, se ricorda molto il provenzale, qui non stiamo a fare un'analisi linguistica, amour fa pensare al francese, populo fa pensare allo spagnolo pueblo, insomma, una lingua romanza, diciamo, assomiglia un po' al provenzale, un po' allo spagnolo. E qui invece vedete, in godes min in tes christianes folkes, in unser vedero ge haltnis. Questo invece questa è una forma di proto tedesco, di antico tedesco, no? Godes, vedete il genitivo, questi genitivi, no? Godes, tes christianes, folkes, folk, popolo, no? Got, no? Dio sia, insomma, questa radice germanica che si trova sia in tedesco che in inglese. Bruder, vedete, no? Che è Brother in inglese. Insomma, una lingua germanica, si nota chiaramente la contrapposizione tra una lingua romanza e una lingua germanica, quindi da una parte una lingua che assomiglia un po' allo spagnolo, un po' al francese, dall'altra una lingua che assomiglia un po' al tedesco, un po' all'inglese, insomma. Incominciano a prendere forma queste lingue nazionali. Allora, pagina 388-389, a proposito di Europa di popoli, uniti nella diversità e diversi nell'unità, insomma, fate voi. L'Unione Europea, qui c'è una ricostruzione, una breve ricostruzione della storia dell'Unione Europea. Fondamentalmente l'Unione Europea ebbe, già negli anni del fascismo, insomma, Altiero Spinelli, in esilio, al confino, insomma, a Ventotene, scrisse il cosiddetto Manifesto di Ventotene, in cui c'era già il grande ideale dell'Unione Europea, che avrebbe dovuto prevenire conflitti fra i popoli dell'Europa, quei conflitti che avevano lacerato l'Europa con la prima e con la seconda guerra mondiale. Ecco, fu un cammino graduale, prima la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nel 1957, poi la Comunità Economica Europea. Ad ogni modo, il testo fondamentale è attualmente il Trattato di Lisbona. Vedete qui, l'Unione rispetta in tutte le sue attività il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione Europea chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. Ecco, quindi noi siamo cittadini sia italiani che europei. Quando si parla di spazio Schengen si allude allo spazio in cui i cittadini europei possono muoversi liberamente, in base al principio della libera circolazione delle persone. L'Europa pone molti problemi, insomma, ci sono movimenti anti-europeisti, populisti, nazionalisti. C'è chi dice che l'Europa crei ai singoli popoli più problemi che altro, che giovi soprattutto all'alta finanza, ai banchieri, insomma, questi sono lunghi. Sono insomma, questioni complesse. Il trattato di Schengen impone anche la moneta unica, l'euro, no? Che ha sicuramente semplificato gli scambi commerciali, perché non c'è il problema del cambio. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui si è assicurata la libera circolazione delle persone. Ecco. Abbiamo visto varie situazioni storiche in cui l'uguaglianza fra gli esseri umani, fra liberi e schiavi, fra latini e germani, fra uomo e donna soprattutto, questa uguaglianza non era assolutamente garantita, mentre, come è per noi ovvio, nella Costituzione europea e anche nella Costituzione italiana questi diritti e questa uguaglianza sono garantiti. Noi tendiamo a darli per scontati, ci accorgeremmo della loro importanza solo nel momento in cui ne fossimo privati. La Costituzione, articolo 11. Sì, la Costituzione, ho avuto un problema con il computer, ho temuto di aver perso tutto. Vabbè. Qualcuno potrebbe dire, beh, sai che pette, ma comunque, ecco, la Costituzione italiana, qui avete l'articolo 11, pagina 389, in basso c'è, cioè, articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, cioè rifiuta la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati la limitazione di sovranità necessaria ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Ad esempio l'ONU. L'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, ha fra i suoi scopi proprio quello di prevenire i conflitti fra i popoli. La guerra, come abbiamo visto e come ovvio, è piena di guerre e di conflitti. Anzi, come diceva Hegel, la storia è come un mare. Ed è la guerra che lo muove. Se non ci fosse la guerra a muovere le acque del mare della storia, il mare della storia si trasformerebbe in una immensa palude. Questa non è una giustificazione della guerra, ma insomma, la storia è piena di guerre. C'è quella barzelletta, dice: Pierino, cosa ne pensi della guerra? Dice: ah, la guerra è una cosa orrenda, E perché? Perché la guerra fa la storia e poi ci tocca studiarla. Vabbè. Allora, pagine 424-425, dalla guerra fredda al mondo attuale. Quando si parla di guerra fredda si allude alla contrapposizione fra il blocco orientale e quello occidentale, il blocco dell'influenza statunitense e il blocco dell'influenza sovietica comunista, prima della caduta del muro di Berlino. Il muro di Berlino cadde, il muro di Berlino che era stato costruito a dire il vero dai tedeschi dell'est, cioè dai comunisti, per impedire che i tedeschi dell'est comunisti, della Germania, della Repubblica Democratica Tedesca, della Germania comunista, scappassero in Occidente. Quindi il muro non fu costruito dagli occidentali per impedire a quelli dell'est di venire in Occidente, al contrario, fu costruito proprio dai tedeschi orientali per impedire che i cittadini dell'est scappassero dal comunismo per rifugiarsi in Occidente. Comunque, la caduta del muro di Berlino 1989, dissoluzione dell'Unione Sovietica 1991, ci furono vari eventi storici, il più drammatico, il più traumatico fu sicuramente quello della rivoluzione in Romania con l'uccisione del dittatore Ceausescu. Gli altri dittatori, per evitare di fare la fine di Ceausescu, pensarono bene di deporre il potere pacificamente, senza tante storie. Allora, praticamente molti piccoli conflitti, ecco, dopo la fine della guerra fredda, la fine della contrapposizione fra i due blocchi, quello statunitense, la NATO, insomma, in Occidente, di cui faceva parte l'Italia, e il patto di Varsavia, insomma, nell'Europa dell'Est, dopo la fine di questa contrapposizione, insomma, si sono aperti tanti altri scenari di guerra. Qui viene citato il caso della guerra fra Russia e Ucraina, la secessione della popolazione russofona dell'Ucraina, l'annessione della Crimea alla Russia. Una parte degli ucraini, insomma, era formata da europeisti, insomma, volevano avvicinarsi all'Occidente, mentre la Russia di Putin ha ancora atteggiamenti molto nazionalisti, insomma. Il conflitto fra israeliani e palestinesi, qua bisognerebbe. Ci vorrebbe un altro anno, insomma, per fare tutte queste. Non sono faccende complesse che non si possono riassumere in poche righe. Ecco, in Africa ci sono molte guerre civili che hanno anche una base tribale, anche perché i colonizzatori europei stabilirono arbitrariamente dei confini fra le diverse colonie e all'interno della stessa colonia c'erano tribù divise da antiche rivalità. Quando i colonizzatori se ne andarono, gli stati africani assunsero gli stessi confini imposti dai colonizzatori. Questo provocò gravi contrasti all'interno di questi stati africani, perché nello stesso stato erano costrette a convivere delle tribù che erano rivali da secoli. Questa foto è molto eloquente, perché qui vedete dei miliziani sudanesi, cioè questi guerrieri africani, che hanno equipaggiamenti modernissimi. Anche se combattono queste guerre di matrice tribale, no? Vabbè, nel Ruanda ci fu il famigerato genocidio nel 1994, no? La guerra fra Hutu e Tutsi, e in particolare il genocidio compiuto dagli Hutu a danno dei Tutsi, anzi degli Aba Tutsi, perché al plurale si direbbe così. Ma la distinzione fra Hutu e Tutsi era stata introdotta in Ruanda dai colonizzatori belgi. Quindi, tipico esempio di influsso negativo della colonizzazione. Erano stati i colonizzatori belgi a introdurre l'ideologia razziale che in Ruanda non c'era ancora. La guerra civile nella Liberia, ad esempio, anche quella per il possesso dei diamanti. In genere sono guerre combattute per il possesso delle risorse minerarie, il petrolio della Nigeria, in cui si trova il MEND, il Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger, il quale dice che è assurdo che in Nigeria la gente debba morire di fame mentre sotto i piedi hanno miliardi di dollari di petrolio che vengono presi dalle multinazionali. Beh, insomma, i metodi potranno essere discutibili, ma le ragioni sono sacrosante. C'è poi l'integralismo islamico, vabbè, Al-Qaeda, il cui leader era Bin Laden, che fu ucciso in Pakistan, se non ricordo male. Più di recente si è parlato dell'ISIS, no? Il califfato, il sedicente califfato islamico. Ecco, vedete, il califfato islamico vorrebbe, l'ISIS vorrebbe tornare ai tempi dei califfi dei califi, insomma, ai tempi degli Omayyadi, degli Abbasidi, di Maometto, di Ali, insomma, si riallaccia direttamente a quella storia per loro gloriosa di, insomma, religione non di pace, ma di guerra e di sopraffazione. Ma non, insomma, l'Islam non è necessariamente integralista, ovviamente. Allora, Organizzazione delle Nazioni Unite, pagina 430. Tutte queste guerre dovrebbero essere arginate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, il grande organismo planetario che riunisce tutti gli stati del mondo, ecco, che dovrebbe attraverso i caschi blu, cioè degli eserciti, qui avete anche la foto di questi con i caschi blu, cioè questo, i carri armati bianchi dell'ONU con i caschi blu, che dovrebbero separare, diciamo, gli eserciti contendenti, impedire le guerre, fermare o limitare le guerre con le cosiddette missioni di pace. Tuttavia, nell'ONU c'è il Consiglio di sicurezza, composto da 15 stati, ma i più importanti, Stati Uniti, Regno Unito, Russia, Francia, Cina, hanno il diritto di veto su tutte le decisioni dell'ONU. Cosa vuol dire diritto di veto? Quando abbiamo studiato Augusto, abbiamo parlato di tribunicia potestas, ossia il diritto di veto sulle decisioni del Senato. L'imperatore Augusto poteva bloccare, prerogativa questa dei tribuni della plebe, tutte le decisioni del Senato. Analogamente, il Consiglio di sicurezza dell'ONU può bloccare, può esercitare il veto sulle decisioni dell'ONU, quindi è di fatto il potere dell'ONU. L'ONU non è democratico, non è democratica, perché il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha più potere di tutti gli altri. Alcuni sono più uguali degli altri, come diceva Orwell. Vabbè, qui c'è un elenco delle altre delle organizzazioni, insomma, che fanno capo all'ONU. Qui c'è anche una ripetizione, perché trovate un elenco più articolato, sì, qua il libro è un po' ridondante, perché la classificazione di tutti questi organi dell'ONU, no, dov'è? Sì, insomma, non è che, insomma, le mie spiegazioni saranno anche un po' caotiche, ma anche questo libro non è che sia proprio un esempio di ordine. Allora, pagine 454-455 trovate un elenco di questi, dei principali, delle funzioni dell'ONU, di cui abbiamo già parlato, insomma, la pace, la cooperazione internazionale, il rispetto dei diritti umani, dei diritti politici, della libertà individuali. Sono le finalità così liberal-democratiche di tutte le costituzioni moderne, degli stati democratici. Ecco, qui avete alle pagine, qui potete riassumere, perché è un po' prolisso il libro, cioè, anche a pagina 456, 457, comunque ricordate, l'UNICEF che si occupa dell'assistenza all'infanzia, la FAO, l'organizzazione che si occupa dell'agricoltura, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, no, di solito, Fondo Monetario Internazionale che dà dei prestiti ai paesi in difficoltà, Alto Commissariato ONU delle Nazioni Unite per i Rifugiati, si occupa dei profughi, no, che purtroppo ci sono sempre per via delle guerre, delle carestie, della fame e via discorrendo, l'UNESCO, organizzazione che invece si occupa della cultura, ci sono spesso iniziative con il patrocinio dell'UNESCO. Allora, quindi vedete, il legame fra politica e cultura è sempre molto importante, la cultura è un fattore di civiltà e di pacifica coesistenza, beh, non sempre pacifica, comunque a volte anche motivo di contrasto. Pagina 440-441, qui viene, insomma, si parla ancora della Costituzione italiana, è un po' spezzettato questo libro, insomma, un po'. Allora, vabbè, qui viene spiegato in modo più esteso quello che abbiamo già visto e già detto. Ecco, la separazione dei poteri, questo è un principio molto importante. Affinché si abbia una democrazia e non una dittatura, è necessario che i poteri siano divisi. Un grande pensatore illuminista, il Montesquieu, nell'opera dell'Esprit des lois, sullo spirito delle leggi, teorizzò la distinzione, la separazione fra i poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere legislativo, fare le leggi, spetta al Parlamento, il potere esecutivo al governo, cioè farle eseguire, farle rispettare. La magistratura invece ha il potere giudiziario, cioè deve giudicare, insomma, i giudici, i tribunali. I tre poteri devono essere ben distinti. Non per parlare di politica spicciola, ma quando Salvini, da ministro dell'Interno, disse voglio pieni poteri, forse senza rendersi conto nemmeno lui di quello che diceva, oggettivamente, come poi gli fu rimproverato dal Premier Conte, violò questo principio perché il ministro dell'Interno, che fa parte del governo, non può pretendere di avere pieni poteri, cioè di prevaricare sul Parlamento e sulla magistratura. Cioè, cosa vuol dire pieni poteri? Se un uomo solo avesse pieni poteri, allora non sarebbe più una democrazia, sarebbe una dittatura. Allora, vabbè, questo non per dire, ma insomma, sono argomenti di attualità, di dibattito, poi si può discutere. Allora, con questo siamo giunti alla fine di questa maratona, quindi non si sa se e quando riapriranno le scuole, forse sì, forse no, forse riapriranno e quando riapriranno non ci sarà tempo sufficiente per interrogare tutti. Questi sono gli argomenti che vabbè, saranno approfonditi anche in seguito. Io caricherò altri testi sperando di riuscire a fare scannerizzazioni più limpide, più facilmente leggibili. Che devo dire? Che Dio ci protegga. Speriamo che questa difficile situazione, insomma, si alleggerisca, per qualsiasi dubbio, richiesta, critica, eccetera, potete scrivermi all'indirizzo matteoveronesi@yahoo.it, tutto minuscolo, tutto attaccato. L'indirizzo lo trovate anche in quei file che ho caricato. Potete scrivermi a qualsiasi ora, in qualsiasi giorno, insomma, in genere rispondo celermente, quindi buono studio e a risentirci.